Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Eccoci con Ferry Boat, sono Insergante e traghettatore per gli appuntamenti della settimana. Vi segnaliamo subito che martedì, che è il 19 aprile, al centro congresso Cariplo a Milano viene presentato il progetto Sodalitas Social Innovation. Direi che è particolarmente rilevante perché tocca lo schema profit non profit, cioè le associazioni non profit, quelle hanno uno scopo di lucro, in genere non hanno una grande capacità progettuale perché non sono strutturate in termini manageriali, non hanno grandi investimenti. Allora l'idea di Sodalitas è quella di cortocircuitare queste informazioni e fornire strumenti che consentono una più efficace anche presentazione delle proprie iniziative ai soggetti che sono potenzialmente finanziatori. Sempre martedì, ma a Firenze, Eni e Lega Ambiente si incontrano, sono appuntamenti periodici su temi legati all'ambiente, in questo caso l'appuntamento è all'Università degli Studi di Firenze, si parla del futuro del pianeta, degli scenari dell'energia. IKEA Usa e Riusa è l'iniziativa che per tutta la settimana caratterizzerà i punti vendita nelle varie città italiane. Che cos'è Usa e Riusa? Ce ne parla Valerio Di Bussolo. Buongiorno a tutti. Usa e Riusa è un'iniziativa che abbiamo testato in alcuni punti vendita l'anno scorso e che quest'anno invece facciamo partire a livello nazionale. In pratica per 3 settimane quasi verrà data la possibilità ai visitatori dei punti vendita IKEA di portare da noi un mobile o un complemento d'arredo e questo verrà esaminato dai volontari di una ONG locale che presidieranno in pratica questa tensostruttura che viene montata all'esterno dei nostri punti vendita. Gli articoli che verranno portati dai visitatori verranno messi in vendita nella stessa tensostruttura e il ricavato andrà a finanziare un progetto che il singolo punto vendita avrà concordato con l'ONG. Ad ogni cliente verrà dato invece un buono che potrà variare tra i 10 e i 20 euro a seconda del valore del prodotto lasciato. In questo modo noi cerchiamo di attivare una sorta di circolo virtuoso, il consumatore non butta via il prodotto quando ritiene di avere finito il ciclo di vita, perlomeno dal proprio punto di vista, e quindi lo rimette in circolo. E chi compra il prodotto dà fondamentalmente una donazione ad un progetto radicato nel territorio. Ecco, i mobili di cui stiamo parlando devono essere mobili IKEA o possono essere? No, assolutamente. Ecco, anche da questo punto di vista IKEA non ha deciso di non, nonostante ritenga che ci sia molta gente che abbia oramai mobili IKEA in casa, però non ha voluto limitare l'accesso ai soli mobili IKEA. Si è voluto proprio fare un discorso educativo sul fatto del ciclo di vita del prodotto che se per caso per il proprietario non ha più interesse o comunque ritiene che il prodotto sia andato fuori moda o per altre ragioni, quindi di dismetterlo, non è detto che il ciclo di vita di quel prodotto sia per forza finito, ecco, ci può essere altri target e altri utenti che sono possibilmente potenzialmente degli utilizzatori. Ecco, le società a cui andrà poi in beneficenza l'incasso di questa vendita, mi pare ci ha già detto che sono, come dire, localmente scelte. Sì, sono localmente delle organizzazioni non profit locali, quindi sono delle ONG, delle onlus, spesso e volentieri sono associazioni che hanno bisogno di mobili per questioni di arredamento di spazi a loro destinati o a cui sono stati dati, per cui diciamo le tipologie sono molto diverse, però si va da spazi di accoglienza per senza tetto piuttosto che spazi per diversamente abili. Capita spesso e volentieri nel panorama dell'associazionismo del volontariato italiano di imbattersi con strutture a cui magari gli enti pubblici danno a disposizione degli spazi, ma poi diventa un po' il problema di arredarle e cerchiamo appunto di venire incontro anche a questa esigenza. Bene, grazie. Usa e Riusa fino al 23 aprile a IKEA. Finiamo qui la puntata di Ferry Boat dedicata alla settimana. Vi ricordo il nostro indirizzo ferryboat@radio24.it per le vostre segnalazioni. Vi ricordo anche gli orari: 6.50 del sabato, 13.55 sempre del sabato, 6.50 alle 14 la domenica. Grazie ad Anita Panizza in redazione e a Roberto Scaltritti in regia. A risentirci.